avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. So che tutti si aspettano che inizi subito a trattare dell'argomento succosissimo di cui già ieri lungamente ebbi modo di discutere nei vari profili Facebook legati a questa trasmissione. Ma farò una velocissima e brevissima premessa. Non mi piacciono le dichiarazioni di solidarietà perché sono qualcosa che appartiene a un'epoca passata, delle ipocrisie che non abbiamo mai percorso, però mi sento sinceramente di sprecare mezza parola per l'amico Oscar Giannino che mi precede sempre in questa trasmissione. Vedo con rammarico la foto su un unico giornale che l'ha trattata di lui insozzato di pomodoro e uova che stoicamente cerca di esprimere le proprie ragioni ai giovani studenti della statale di Milano che gli danno del padrone. Mentre davano del padrone e gli tiravano uova e un ragazzo gli versava addosso la salsa di pomodoro, lui fermo, immobile, stava lì e cercava di spiegare perché aveva diritto di parlare, di esprimere il suo pensiero. Ora, questi giovani che hanno ereditato una sorta di malinterpretato spirito giacobino manco dalle loro mamme, dalle loro nonne, perché oggi chi chiama più padrone una persona solamente perché ama vestirsi ricercato, perché porta le ghette. C'ha le ghette, quindi è come il padrone dai belli braghi bianchi. Adesso Giannino, figura, uscirà eroicamente anche da questa vicenda, senz'altro fortificato. Ma io propongo un'idea, non l'ho ancora consultato, non so se lui sarà d'accordo. Visto che piace molto agli ascoltatori di questa trasmissione riunirsi in eventi che convochino anche fisicamente le persone che ascoltano soltanto voce o si incontrano soltanto sui social network, io vorrei fare un'asta a scopo benefico in cui metterei a disposizione del miglior offerente gli abiti insozzati di Oscar Giannino, che non sono più usabili naturalmente, la macchia d'uovo mista alla macchia di salsa di pomodoro rende inservibili i raffinati vestimenti di Oscar Giannino, quindi non ha che modo di buttarli via, se ne disferà. Io lo pregherò di non disfarsene, vorrò metterli su un sontuoso manichino, vorrò illuminarli come si illumina il vestimento di un eroe di una battaglia perduta, ma le battaglie perdute sono quelle perdute in partenza che maggiormente noi amiamo frequentare, e vorrei radunare una folla e vorrei pezzo per pezzo mettere in vendita gli abiti di Oscar Giannino. Io che già feci una fantastica trasmissione, ricordate, sulle reliquie dei martiri del Risorgimento, come la camicia dei fratelli Bandiera, come la giubba dell'imperatore Francesco Giuseppe attraversata dalla pallottola di Brescia, io vorrei mettere all'asta gli abiti di Giannino. Non, nessuno è morto, nessuno è stato ferito, nessun orgoglio è stato intaccato dalla scellerataggine di quattro ragazzetti che stanno davanti all'università protetti da un sistema che li teme, che ha paura di loro. Vorrei semplicemente rappresentare quello che è l'oltraggio alla libertà estetica. L'estetica in realtà è la più grande espressione che ha un essere umano per differenziarsi dagli altri esseri umani e dagli animali. L'oltraggio all'estetica è probabilmente quello che più mi ferisce. L'ideologia a me non interessa, non so cosa volesse dire Giannino, non so nemmeno cosa volessero dire gli altri. A me dispiace che le persone abbiano fatto oggetto di oltraggio, di sberleffo, qualcosa che non appartiene alla massificazione della propria rappresentazione personale. 800 24 0024, quanti vorranno partecipare alla base d'asta, se lui me lo permetterà, dei vestiti del martire Giannino, io sarò volentieri il vostro banditore. Tu giuri che da me non vuoi nient'altro che sesso? E tu giuri che non vuoi di più da me? Lo so come siete voi ragazze. Che stai facendo? Sto aprendo l'applicazione Bibbia. Ecco fatto. Oh. Niente storia d'amore, niente sentimenti, solo sesso. E comunque vada, restiamo amici. Giuro. Giuro. Giuro. Camera da letto. Non va bene il divano, meno compromettente. In camera da letto c'è più luce. Dato che siamo solo amici, non mi devo sentire insicura del mio corpo. Ma andiamo, tu sei bella. No, ecco, lo vedi? Ora ti metti a fare complimenti. Da evitare assolutamente. Hai il sedere un tantino magro? Adesso ci siamo. Entriamo quindi nell'argomento, lasciando a parte il prologo, la premessa, su cui torneremo, se sarà d'accordo l'amico Oscar, di offrirmi i suoi abiti insozzati. Avete capito e compreso da questa premessa che oggi il termine di discussione è una parola che in sé è una crasi, unisce due elementi, secondo me antitetici, ma secondo una vulgata ormai in vigore da almeno una quindicina d'anni, è un termine che sembra molto figo. Lo dirò rischiando di rasentare il disprezzo e il raccapriccio di chi mi ascolta, perché ormai è un termine di uso comune, come tante parolacce che ormai si sentono tranquillamente anche nei titoli dei telegiornali. La parola è, tenetevi forte, tromba amico. Detta tromba amico, fatta tromba amico, non ferisce nessuno, una parola che rimbalza sulle pareti in maniera gioiosa come una palletta di gomma comprata al supermercato, non ha nulla legato alla trasgressione, in sé, ecco, per tornare a delle similitudini, non ha quella portata estetica legata al tragico, al trasgressivo, al piacevole, all'ubrico, al peccaminoso, che dovrebbe contenere un termine che rappresenta una persona con cui si ha commercio carnale svincolato da ogni implicazione sentimentale. Il trombamico, secondo me, nasce negli anni 90, molto legato a serie di telefilm che mandavano in visibilio le nostre impiegate del catasto, che erano queste signore newyorkesi di Sex and the City che passavano velocemente da un amore all'altro, con grande libertà e grande spregiudicatezza. Provavano a fare loro la stessa cosa con il compagno di scrivania, con il capufficio, con l'idraulico, e vedranno convenire la stessa cosa. Perché? Perché il modello di trombamico, secondo me, è un modello fallace. Ha innanzitutto, contiene in sé una aporia, una contraddizione di fondo. La parola che indica in termine gergale l'accoppiamento sessuale non può essere legata alla parola amico. Sono due termini che cozzano. Se una persona ti è amico, ti è profondamente amico, dovrebbe essere completamente depotenziato di un valore e di un portato legato alla sessualità, all'attizzamento dei sensi. Ci può essere un post trombamico, cioè una persona con cui si è avuto un commercio carnale, si è esaurita la carica di attrazione sessuale, si rimane buoni amici, anzi ottimi amici, perché non c'è più quella sorta di malinteso, di detto e non detto, cioè fra un uomo e una donna, quando fingono di essere amici ma in realtà c'è qualcosa di nascosto che giace sotto traccia. Non può essere alla stessa maniera una piacevole e quindi ripetibile nel nostro desiderio atto sessuale con una persona, se continuiamo a chiamarlo amico. In realtà, quando una persona ci piace, abbiamo voglia di vederlo, abbiamo voglia di riempire il nostro spazio emotivo con la sua presenza, non è più un amico. È un amore che noi neghiamo che sia tale, è qualcosa che ci prende profondamente. Se il trombamico in realtà poi passa a un'altra persona, a noi dispiace. Io parlo trombamico in senso generale, la trombamicizia a questo punto di vista può essere vista da qualunque punto di vista, può essere il trombamico o la trombamica. Sono convinto che abbiamo vissuto noi una decina d'anni su questa illusione, perché non ci piaceva parlare di amanti, che era qualcosa che apparteneva alle generazioni passate, quindi c'è stato uno slittamento lessicale. L'amante è diventato il trombamico, ma in realtà è la stessa cosa, in realtà c'è lo stesso principio di indissolubile ritorno alla tradizione. Quindi come la pensate voi oggi? Ieri, parlando lungamente con i miei amici su Facebook, siamo arrivati a una soluzione mediata di non chiamarlo più trombamico ma trombindividuo. Il trombindividuo oggi come viene definito? La persona con cui si può avere sporadicamente, radicalmente, intensamente, ma non legati a un rapporto, a un progetto amoroso, a un progetto di vita, un atto sessuale, come lo chiamereste? 800240024. Il trombamico non è il tuo fidanzato. Ne consegue che non lo dovete corteggiare, non dovete sperperare i vostri già miseri risparmi in regaletti assurdi come la stufa a forma di Hello Kitty per le donne o il triplo DVD Blu-ray per gli uomini. Non dovete soffrire come maiali se non vi chiama o se lo vedete mano nella mano con un altro. Non vi costringe ad assistere al suo programma preferito. Non dovete sottoporvi a estenuanti liti con conseguente inutile veleno. Inoltre il trombamico non vi tradisce. Non può, non siete fidanzati. Diciamo che c'è una letteratura ponderosa a sostegno dell'utilità, della necessità, della fatalità di esistenza del trombamico. Addirittura hanno tracciato diagrammi, hanno espresso matrici, hanno creato dei processi per cui il trombamico in realtà in alcune aree si sovrappone anche con l'amante, si sovrappone con il partner fisso, ma il risultato è anche che la ricerca della felicità è molto più facile attraverso il trombamico piuttosto che con un rapporto clandestino consolidato, un rapporto ufficiale logorato. In realtà non sono molto d'accordo. Io vorrei questa mattina sfatare il fatto che farlo con gli amici è una grande figata, è qualcosa che ci fa sentire bene. In realtà gli amici non sono quella cosa lì sono altra cosa. Quindi tanto vale chiamarli con il proprio nome. Aggiungere alla parola tromba, alla parola amico, una sorta di edulcorazione, di cosmesi ipocrita. Diciamo, beh, è un amico, quindi c'è affetto, c'è tenerezza. È molto meglio che dire il trombo idraulico, il trombo muratore, il trombo rumeno. Ecco, no, non si può dire. Il tromba amico, fondi, rimane una cosa carezzevole. Diciamo le cose come stanno. Diciamo che nella liceità, nella possibilità di sperimentare anche questa modalità di incontro, che è l'incontro finalizzato soltanto a un atto fisico, non mettiamoci di mezzo la parola amico, perché non c'entra nulla. 800240024. Avete esperienza di tromba amicizia? Raccontatemela questa mattina, perché io vorrei intanto cominciare a definire il modello per vedere se è possibile fare un passo avanti. Il tromba amico è onnipresente. In qualsiasi luogo, in qualsiasi momento la pulsione sessuale vi colga, sarà sufficiente inviare un SMS al tromba amico. Salvo eccezioni in cui egli sarà fisicamente impossibilitato, il tromba amico correrà in vostro aiuto. Fa parte delle leggi non scritte della tromba amicizia la correre in caso di emergenza senza star lì a cercare scuse. Il tromba amico non avrà mai il mal di testa. You're gonna miss me, daddy. Anche questa è un'altra illusione. Se abbiamo veramente un amico o un'amica, parliamo in termini neutro, e pensiamo che sia sempre a nostra disposizione per i nostri momenti di horror vacui, di vacuum sensoriale e di necessità fisiologica, facciamo a lui un torto. Non è il nostro gigolò, non è una persona essere sempre pronta, potrebbe averci i fatti suoi, potrebbe essere non disponibile, potrebbe farlo con una sorta di senso di pietà. Guardate, ve lo dice chi in gioventù probabilmente, come tutti, inutile che ci nascondiamo, aveva anche fatto il tromba amico qualche volta. In realtà, se un'amicizia consolidata, o una frequentazione, una compagna di università, una collega d'ufficio con cui non si è mai fatto nessun pensiero, e capita di incontrarsi una volta che ci si piange sulla spalla perché entrambi si è reduci una storia disperata, e si compie l'atto, ma lì per lì è qualcosa un po' di forzato, qualcosa che ha quella sottile ritrosità di averlo fatto per forza. Il giorno dopo ci si sente come coperti da qualcosa di cui ci si deve dimenticare, non si ha più il coraggio di guardare la persona. E se poi si immagina, si sospetta, si pensa che quella che noi pensiamo che sia soltanto una tromba amicizia, dall'altra parte c'è una sorta di trasporto superiore, il tromba amico diventa il nemico peggiore. Se ci si accorge che il tromba amico è innamorato, o perlomeno e sogna di vederci, o perlomeno ha una dipendenza da noi, noi lo odiamo, vorremmo che scomparisse, o entra un gioco di pietà per il fatto che è amico, non abbiamo il coraggio di deluderlo e speriamo quindi allora di disgustarlo al punto tale che lui si allontani da noi. Matteo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, condivido assolutamente questa cosa. Sono sposato felicemente da 3 anni, da 4 ho conosciuto mia moglie, prima ho avuto quella che mia mamma ha sempre definito una vita dissoluta. Sì, e poi le mamme, per vita dissoluta significa così, non essere fidanzati ufficialmente. Ecco. Esatto. Quando poi me l'ha detto, ho detto, mamma, dissoluta non lo dice più nessuno, e mi si è arrabbiata. Ma a parte questo, io ho avuto una regola aurea. Cioè, le amiche, conoscenti, eccetera, più di 3 volte... non me ne trombavo. E questa direi, usiamo dei termini un pochino più gentili, sennò sembra una trasmissione. Non avevo con loro commercio carnale, diciamo. Esatto, non avevo con loro commercio carnale più di 3 volte. Era una regola che mi ero posto, non so perché 3 mi sembrava un numero ragionevole. È già azzardata, diciamo che la terza è già azzardata. Sì, lo so, però tante volte facevo fatica a rinunciare alla quarta, quindi insomma almeno 3 volte. Ecco, però vede che dà ragione alla mia teoria. Lei non era un trombamico, era sulla strada di innamorarsi di una persona una dipendenza. E se lei proprio l'opposto. Facevo fatica a rinunciare alla quarta, non per una questione affettiva, ma per una questione che la ragazza meritava. E quindi uno diceva, vabbè, guardi, non affettivamente, ma ormai siamo tutti in un periodo della vita in cui non ci si può prendere in giro. Una persona che merita, noi diciamo merita, una persona, può essere anche una donna, anzi spero che chiamino donne e parlino con la stessa leggerezza di maschi, sennò siamo una trasmissione da retrobottega di barberia. Quando noi abbiamo il desiderio anche fisico di una persona, in realtà ne siamo presi, c'è una fascinazione, c'è un legame con questa persona, noi lo rinunciamo perché non vogliamo dire siamo innamorati, che siamo dei deboli, che ne siamo dipendenti. Ma in realtà se si va oltre la terza volta nel desiderio di stare assieme a una persona, non è soltanto un fatto fisico, è un legame che è più profondo. La quinta volta ci dispiacerà se la persona ci dirà: no, guarda, oggi non esco con te, ma esco con un altro fidanzato. Ci rimarremo male, lo negheremo a noi stessi, ma sarà comunque un vulnus, una ferita nella nostra integrità. E quindi il trombamico era, secondo me, una grande ipocrisia. Sei single e vuoi continuare ad esserlo, ma è l'ormone impazzito che urla all'arrembaggio. E allo stesso tempo stai cercando un modo carino e diretto per dire: sai, ho voglia di... ma senza impegno. Ma ce l'ho io il rimedio per lei. La tromba amicina, il cui principio attivo è la tromba amica. Questo è un dispositivo medico da usare senza cautela. La tromba amica non deve essere esclusiva, è compatibile con altri due o tre farmaci similari. E se poi riesci a prenderli tutti insieme contemporaneamente, bella per te. Questa è una blogger che sta anche lei esprimendo i canoni del trombamico. Ma oggi legarsi alla figura del trombamico significa essere altrettanto retro quanto il giovane ragazzo rivoluzionario della statale di Milano che dice a Giannino: padrone. Trombamico è antico come è antico dire padrone a una persona. Padrone di che? Trombamico di che? Non sei amico se mi trombi. Se mi trombi non puoi naturalmente essere chiamato amico. Se mi piace stare con te, non sei un amico, sei qualcosa di più. Sei qualcuno con cui ho desiderio e voglia di passare insieme del tempo. Quindi mi sto incamminando verso una relazione o verso una dipendenza. Quindi perché chiamare amico la persona a cui si ha dipendenza? Gli amici devono essere qualcosa di estrema leggerezza. Non bisogna averne desiderio, non bisogna esserne dipendenti. Deve essere una scelta è gratuita, occasionale, se no non è amicizia, se no diventa una droga. Ma secondo voi esistono delle dosi da non superare per non andare incontro a degli effetti collaterali indesiderati? Insomma, per non coinvolgere il cuore? Tesoro, amore, sono qui. Quanto siamo stati bene insieme questo mese. Ci siamo visti così tanto, 4 volte a settimana. A proposito, ti volevo ricordare che ho già lasciato lo spazzolino in bagno. Così la prossima volta, se me lo dimentico, per dormire qui non ho alcun problema. E poi mi raccomando, sabato c'è il compleanno della migliore amica. Ricordati che viene anche mia sorella, per cui vestiti bene. E non dire le parolacce. E poi, per quanto riguarda la settimana bianca, ho già prenotato. Sì, ma non mi tappiglio, te l'avevo detto, in quel bel resort, amore. Ecco, questa ragazzina giustamente esprime tutte le categorie che segnano in maniera indelebile, ahimè fatale, la decadenza o perlomeno lo slittamento del trombamico verso una figura più classica, è quella del compagno, del fidanzato, dell'amante, del promesso sposo, chiamatela come volete. Ma guardate, io vi dirò di più: anche quando il trombamico diventa un'alternativa rispetto a un rapporto di coppia consolidato, siete già fidanzati o fidanzati, sposati o sposati, e avete quel collega d'ufficio, quella collega d'ufficio con cui fate gli sciolti e dice: ma no, ma noi soltanto così, siamo amici, ci facciamo questo piacere, questa cortesia, vi prendete in giro, prima o poi, se ci state bene, se la cosa funziona, se sensualmente vi appaga, sarà sempre più il desiderio di spostare la vostra attenzione verso quella persona. Fate l'esempio: se poi la persona sceglie l'altro compagno di scrivania, se invece di Fantozzi si prende Filini, ci rimanete malissimo, ci soffrite come cani. Quindi è molto difficile giocare con queste cose. Massimiliano. Sì. Io spero che chiami anche qualche signora e ci conforti, sennò sembra veramente una trasmissione per soli maschi. Poi il termine trombamico è un termine coniato a misura di donna. Nasce nell'universo femminile l'idea del trombamico. L'uomo lo subisce piacevolmente e fa finta di pensare che questa è la soluzione migliore, ma non credo che sia così. Massimiliano. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io faccio un antropologo, 50 anni, e mi è venuto in mente, sentendo la trasmissione, una figura molto simile che c'era in Svezia. Io sono stato in Svezia 30 anni fa, ho vissuto un anno con una borsa di studio, che si chiamava il kramkompis, letteralmente significa amico di abbraccio. Il kramkompis era una specie di trombamico, con l'unica regola che c'era, che è diversa da quella attuale, che non si poteva trombare, cioè si poteva fare qualunque altra cosa, ma non il sesso. Non si arrivava mai all'intima d'azione, c'era solo un lambire e mai un approfondire. Esattamente. Ed era però molto simpatico, molto comodo. Io avevo 19 anni, avevo 2 o 3 kramkompis a quei tempi, ed era assolutamente piacevole, però nascondeva, come sta dicendo lei nella trasmissione, nascondeva una superficialità e un bisogno di non impegnarsi. Ma lei che è antropologo, mi aiuti, perché io mi sto arrampicando un po' sugli specchi. Lei è d'accordo con me che questa sia una figura ammantata in realtà di qualità che non ha? C'è sempre una grossa ipocrisia. Definire il trombamico in realtà è esprimere un'aporia, esprimere una contraddizione in termini. Se amico non può essere una persona con cui piacevolmente noi abbiamo un commercio carnale, se abbiamo un commercio carnale piacevole, si va oltre la figura dell'amico, si entra in un altro dominio che non è quello dell'amico, è quello della persona con cui vogliamo stare assieme. È assolutamente così. Io le direi di più, cioè, come antropologo sono abituato a osservare e a non giudicare. Questo tipo di fenomeno, esattamente come nella Svezia della fine degli anni 70, no? Che cosa rappresenta? Rappresenta un bisogno di superficialità, di una facilità di rapporti sessuali che escono un po' da qualunque tipo di codificazione, da qualunque tipo di regole. Ma di fatto che cosa significa questo? Quello significa paura, no? Sì, ma non vorrei che io, la risposta al trombamico sia l'astinenza, la monogamia, la tristezza relazionale. Fate quello che volete, ma vorrei trovare l'espressione lessicale più adeguata alla contemporaneità per definire la persona con cui si ha un commercio piacevole fisico, non necessariamente legata a un approfondimento o a un progetto di vita. Non è più il trombamico, è qualcosa che non esisteva, qualcosa creato dalla fiction americana degli anni 90. Come lo chiamiamo oggi? 800 24 0024. Melog 2.0. A proposito di sesso tra amici, vorrei raccontare la mia esperienza. Io un paio di anni fa ho vissuto questa situazione insieme con un mio amico collega anche di lavoro. Il tutto nasce appunto da un'amicizia che poi magari per determinate situazioni che si vengono a creare può evolversi e trovare una certa intimità. Quindi appunto da questa amicizia nasce poi il rapporto intimo, che è un rapporto fantastico e che va avanti con un tacito accordo in cui si parla, ci si scambia opinioni sulla vita eccetera eccetera, e poi ogni tanto può accadere che insomma si vada oltre. Questa è Alessia, una nostra ascoltatrice, naturalmente un nome, un finto nome per non dare la sua identità reale, che ci racconta della sua piacevole esperienza di trombamicizia. La trombamicizia è il rapporto che oggi vorremmo approfondire, capire quanto sia sentito, sedimentato, esistente nella realtà e quanto, almeno nel mio punto di vista, sia qualcosa di superato. Una piccolissima postilla alla premessa che avevo fatto all'inizio di trasmissione: sì, è vero, nella mia foga di descrivere alcuni esempi di iconoclastia regale a cui paragonare l'orrendo oltraggio fatto all'amico Oscar Giannino, addussi che legai la figura di Gaetano Bresci all'arciduca Giuseppe, in realtà a Sarajevo altre persone fecero l'attentato, Bresci si limitò a uccidere Umberto I. Comunque c'era sempre questa, c'è una sorta di attacco, di oltraggio a una rappresentazione di regalità che bene o male Giannino fra la folla rappresenta, nella sua diversità, nella sua maniera di porsi esteticamente diverso. È un atto coraggioso che gli studenti della statale non hanno capito, perlomeno rappresenta l'antitesi alla loro ottusità, alla loro piattezza. Torniamo al trombamico, che mi sembra argomento interessante e divertente. Federica. Sì, ciao, pronto? Lei è una parte lesa da trombamico, come mai? Sì, perché tempo fa ho avuto una situazione del genere, non so se sia superato o meno come concetto, però mi auguro che venga superato, perché io ho sofferto molto e nonostante fossi impegnata, lo dico ahimè, mi ero invaghita di questa persona che inizialmente credevo potesse essere amico per sempre, e invece alla fine, nonostante comunque da parte sua ci sia stato un chiaro intento di amicizia per sempre, alla fine siamo stati coinvolti dai piaceri della carne, che però io speravo potessero poi portare ad un'amicizia dopo che insomma era finita la foga e quant'altro. Invece non solo era finito tutto e io speravo comunque in una... Diciamo, per lei la foglia carnale era esaurita. Era esaurita. E va bene, è normale. E va bene, questo però per l'amico male. No, per l'amico no. No, per l'amico no, ma poi è finita anche quella e io, insomma, con tacito accordo pensavo che comunque poi potesse subentrare l'amicizia, perché in qualche modo noi donne poi alla fine vorremmo non perdere quel filo conduttore comunque che ci ha portato a quel tipo di legame. E invece lui non soltanto, insomma, non mi ha voluta più incontrare dal punto di vista sessuale, ma poi... Perché lei voleva ancora? Sì. Allora, non è esaurita la foglia sessuale, scusi. No, da parte mia no, da parte sua. Da parte allora, sua scusi, lei la sta indorando. Semplicemente, questo signore... Io mi ero innamorata. Le ha dato alcune piacevoli trombate a sangue per un certo periodo di tempo, poi si è stufato e lei non si rassegna a questo. Io non mi rassegnavo a questo. Vede che però, non può chiamarlo amico. Lei voleva che fosse una situazione stabile, di piacevolezza nel tempo. L'uomo, sì, di solito normalmente le dico, dopo un po', prova pietà, tenerezza, angosciosa senso nei confronti di una persona che capisce che c'è qualcosa di più e lui vorrebbe soltanto qualcosa di carnale. È brutto trovarsi in questa situazione. Poi nascono, ma penso che anche per una donna, quando vede quello con la bavetta alla bocca, fa finta di essere amico, ma vediamoci, trova scuse per vedersi, non è più un amico. Anche se poi sia lei che lui avevate altre situazioni parallele, la vicenda della fuga amorosa è una vicenda che si consuma in uno spazio parallelo, non dice nulla, non inquina nulla, su questo ne sono perfettamente convinto. Quindi lei, Federica, mi conferma il fatto che trombamica è un termine che non funziona, per lei era un potenziale amante, una potenziale alternativa alla sua situazione sentimentale stabile. Per lui era semplicemente una persona piacevole con cui ha avuto dei rapporti piacevoli, fine. Non poteva durare per lui se lei era innamorata. Se lei se ne fosse fregata, può essere che entrambi fossero trovati in una zona di condivisione di ex rapporto. L'ex trombamico può essere amico, ripeto, il trombamico non può essere amico. Sonia in questo momento si è autosfumata. Andiamo avanti allora con la storia di Alessia. Questa è una cosa fantastica, perché non ci sono vincoli, non ci sono gelosie, non c'è da rendere conto a nessuno. Ti comporti così come sei, te stesso. Se ti va, ti va, se non ti va, lasci perdere, è il tuo amico. Questo nasceva anche da un pensarla in maniera comune riguardo al fatto che io sapevo che non mi sarei mai potuta innamorare di lui, perché era una persona con cui mi trovavo molto bene, però sapevo che non aveva un carattere con cui io potevo convivere più di quelle tre ore, e lui per ragioni diverse, per situazioni diciamo esterne al contorno, diciamo, non era disposto ad andare oltre con me, non voleva assolutamente. Quindi questo era un po' il tacito accordo, nel senso che non ci siamo mai chiesti o ci sono mai venuti dubbi, proseguiamo o ci creiamo una storia più seria, assolutamente no. Rimaniamo nell'area della teorizzazione di qualcosa che è difficilmente rappresentabile, lo dimostrano gli ascoltatori, le ascoltatrici che chiamano. Leggo qualche messaggio da Facebook. Isabella dice: non è un'ipocrisia, ed elenca una possibile definizione di questo trombamico. Si chiama dentista, si chiama vicino di casa ma non troppo vicino, si chiama amministratore di condominio, si chiama barman, libera o no, infedele sempre. Ecco, partendo dal presupposto che il trombamico sia un riempitivo dei momenti di non relazione, e allora è già una cosa. Mettiamo che il trombamico sia un'alternativa piacevole nello spazio parallelo alla trasgressione, ancora un'altra cosa, ma in entrambi i casi sia difficile, secondo me, definirlo trombamico. Luigi. Buongiorno, signore. Sì, aspetto la sua testimonianza. Ma io ho sentito uno scorcio della trasmissione, l'ho presa al volo, come suol dirsi. Ho detto: ma se qui chiedono una definizione di ciò che da tutti i tempi, almeno da quando avevo 16 anni, 15, 18, non me lo ricordo bene, e si chiama una botta e via, cioè... No, è limitativo quello. È no, limitativo? No, è una persona con cui si ha un grado di conoscenza, non è lo sconosciuto. Sì, ma può capitare anche che il grado di conoscenza sia da 0 a 10, sia 2, e ci sono dei momenti. Ovidio diceva: non perdere mai l'occasione, nel senso, non sai mai quando è il momento giusto, ci devi provare. Allora ci provi, è il momento giusto e viene fuori quella cosa che si chiama una botta e via. Beh, è giusto chiamare amico o amica la persona che è complice della botta e via? No, amico, amica non esiste. Non esiste. No, non esiste. Questo è il mio punto di vista. Vania, buongiorno. Ciao Gianluca, allora secondo me il trombamico è l'amico con il quale dividi il letto, ma in modo fugace, una volta sola, non replicabile. Non ci deve essere premeditazione, è il contesto magari di una sera, l'alchimia che fa sfociare. Ma è una persona che tu già conosci, già frequenti prima? Un collega d'ufficio? Infatti, però quella sera lì magari qualcosa, l'alchimia, il contesto. Molte volte, diciamo la verità, è il fidanzato di un'amica, il marito di un'amica. Anche quello. Si esce sempre insieme con i bambini, tutti insieme così, una volta ci trova da soli che i rispettivi sono in vacanza e si scopre che l'amico di famiglia è anche un trombamico. Può darsi. E va bene, ok. Sì. E dopo cosa succede? E poi, cioè, non ci deve essere però implicazione sentimentale. Perché se no non abbiamo più la figura del trombamico ma dell'amante, se deve diventare un habitué, qualcosa di stabile, no, non è più benissimo. Trombamico. Benissimo, e ti seguo in questo ragionamento. Si parte con una dichiarazione di intenti, non ci deve essere trascinamento sensuale. Metti che ti piace molto, ti viene voglia di rifarlo. Sì. Perfetto, lo fai due volte, lo fai tre volte, diventa una dipendenza. Appunto, sì, però allora non si parla più di trombamico. Bravo. Allora se è una figura fuori dal matrimonio, diventa l'amante, se è un ipotetico qui ti voglio, però... Non è una forma edulcorata per non legarsi a un termine che sa di antico, di ammuffito, di fantozziano, che è amante, che in realtà è quello che noi chiamiamo trombapinco, è il nostro amante. Ma io vedo le due figure diverse, cioè l'amante cerchi sempre il momento di vederti, ci sono i regali di mezzo, cioè ci sono gli auguri, invece il trombamico io... Ma è un amante in cui non ci sono formalità. È se stesso, basta. Però assomiglia molto di più al marito, non ti fai più regali, non ti fai più gli auguri, ci trombi e basta, ci dividi la vita. 800 24 00 24, vedo che la situazione è ancora spinosa e difficile da sgarbugliare. Melog 2.0. A un certo punto le strade iniziano un pochino a dividersi, perché nella vita di questa persona entra un'altra ragazza con la quale lui stabilisce piano piano un rapporto più serio e di conseguenza piano piano inizia il distacco, che ripeto non è una cosa che si può segnare in un momento preciso, è una cosa che va così scemando nel tempo, finché poi anch'io ho trovato una persona di cui mi sono realmente innamorata per tanti aspetti e la storia poi insomma è finita e siamo rimasti alla fine solo amici e colleghi di lavoro. Questa è la mia esperienza. 800 24 00 24, questa era Alessia che ha raccontato la parabola della genesi, della nascita, dell'esplosione, dell'apoteosi e quindi del decadimento del rapporto con un trombamico. Ora siamo soltanto amici e quindi essendo soltanto amici ha tolto dalla crasi di trombamico la parte legata al commercio carnale. Siamo convinti che ancora questa figura sia percorribile? Quanti la percorrono? Quanti ne traggono soddisfazione? Quanti non si sentono di trattare ipocritamente una materia che è vecchia come il mondo, cioè di avere una relazione reale o clandestina con una persona che in realtà vorremmo che fosse la persona da avere accanto. Mirko, buongiorno. Eccomi qua, lei sono d'accordissimo. Con tutti gli uomini, difficilmente le donne si sbilanciano in questo termine. Prego. Sì, ci sono state più telefonate maschili oggi. Sì, le donne sfuggono, poi hanno inventato loro il termine trombamico. Ma perché siccome ero ancora rimasto, stavo accompagnando al lavoro la mia trombamica, allora non ho ascoltato tutta la trasmissione. E perché l'accompagna al lavoro, scusi? È un gesto da fidanzato, da amante, non è un gesto di trombamico. Ma guardi, questa cosa del trombamico, ma non è che sia una cosa che va... Oh, vede. Mi sembra un modernismo un po' ipocrita, come lei diceva prima. No, è ammuffito, è peggio, non è è un neologismo usurato dall'abuso che ne è stato fatto. Sì, veramente. Sì, c'è un mio amico che senza troppa finezza diceva, mettiamola così, chiamiamola, si può dire gnocca in radio. Sì, beh, me l'ha detto. Diceva, dalla gnocca si arriva al cuore. Però guardi, è una grandissima verità, vale anche per l'uomo. Diciamo, dall'incontro... Vale assolutamente per l'uomo. Io sono convinto che lo dico a un'età veneranda ormai, quindi non sospetto di dirlo con grandi attese che può ancora la vita può darti chissà quale emozione, nel senso che in realtà l'aspetto del trasporto fisico, se intenso, se profondo, se piacevole, apre la via ad altro tipo di relazione. È inutile dire, se con una persona ci stai bene e ci fai bene anche quella cosa, hai voglia di farla finché non ti stufi di farla, e quindi non può essere un amico che fa questa cosa qua, diventa una persona in cui si ha un rapporto di dipendenza, quindi di stabilità. Non dico sia male o bene, dico perché chiamarlo amico, l'amico è un'altra cosa. Vede, lei la sua ragazza che chiama tromba amica, l'accompagna a lavorare, è un gesto di tenerezza, è un gesto di attenzione, è un gesto che va oltre il semplice fatto che magari questa notte avete fatto le scintille. Quindi lei è preso da questa persona, lei non lo vuole ammettere a se stesso, perché tutti noi non vogliamo sempre mascherare la debolezza, la dipendenza affettiva, ma in realtà per lei è una quasi fidanzata, o sbaglio? È assolutamente così, tant'è che io, guardi, non la chiamo proprio tromba amica, però è successo per un periodo, anche perché venivamo tutte e due da due relazioni lunghe, lei addirittura da un matrimonio e io da una relazione lunga 4 anni, che ci siamo chiamati amici per un po' di tempo, tipo chiama la mamma, con chi sei lì, sono qua con una mia amica, oppure chiama l'amico e dice... Sì, ma è l'ipocrisia, l'ipocrisia contemporanea da sfatare, tutti abbiamo le amiche, ma... Anche perché siamo trovati era imbarazzante per me, con lei a fianco, dire sì, la mia amica, non sai, sto frequentando una persona, ci sono questi modi delicati di dire la cosa, che poi insomma, sono qua con la mia ragazza, basta, insomma... Quale basta. Potrebbe essere il tempo? Oh, dire, è la mia ragazza, la persona con cui sto assieme, il mio compagno, trovatevi la maniera, ma chiamarlo amico o amica è sbagliato. L'amico è quello che ci si va a vedere un film insieme, ci si chiacchiera, si può avere anche amiche o carissime amiche, ma se sono amiche vuol dire che sono depotenziate da un punto di vista sessuale, ma che uno non se le farebbe nemmeno se rimanesse su un'isola deserta, anche se sono belle, affascinanti donne, non ti va di pelle, o perlomeno, o se no ci hai esaurito tutto, è stato un tuo momento di gioventù, la rivedi dopo tanti anni, amica, non ci pensi più nemmeno, ma nemmeno ti passa per l'anticamera del cervello. Ma se una persona la desideri, se senti l'odore e ne rimani inebriato, non puoi dire che è una tua amica, è qualcosa che ti prende profondamente. Roberto, come la pensa? Ma io onestamente credo di vivere ormai da 5 anni il rapporto di tromba amicizia per antonomasia. 5 anni? Ma mi sta prendendo in giro. 5 anni come fa a essere una tromba amicizia? È una dipendenza? Assolutamente no, è una dipendenza all'amicizia forse. Scusi, non al rapporto sessuale. Io non voglio sessuale. Essere greve. Se lei per 5 anni ha rapporti carnali con la stessa persona e ancora non si è stufato, perché ci si stufa dopo la seconda volta con una persona in cui non c'è un trasporto profondo, significa che lei, questa persona, ha un rapporto, non è un'amica. Ma ho un rapporto, ma prevalentemente di amicizia, nel senso che durante questi 5 anni noi abbiamo anche avuto storie d'amore, diciamo, indipendentemente da... Questo non dice nulla, questo non dice nulla. Le persone super sposate sono le più compulsive nei rapporti paralleli, questo non dice nulla. Però il vostro universo amoroso personale lo state coltivando da 5 anni, non siete amici. Ma secondo me l'aderimento è questo, cioè nel senso il rapporto di amicizia deve essere prevalente, maggiore e molto più importante del rapporto sessuale. Noi ad esempio viviamo un'amicizia normale, ci vediamo, ci sentiamo, condividiamo del tempo e di tanto in tanto abbiamo questa pulsione sessuale che ci prende, ma finisce lì. Il giorno dopo o mezz'ora dopo ricominciamo ad avere un normale rapporto di amicizia, senza nessuna... anzi, credo sia anche abbastanza facile e semplice da ma capire. Ma quella che lei chiama tromba amica, se si confida con lei e le racconta, guarda, sono stato l'altro giorno con un altro uomo, veramente mi ha fatto impazzire come mai nella vita, veramente è stata una bella esperienza, lei come si sente al suo interno? Sono felice per lei, Vabbè, io non giudico gli altri. Io trovo che ci sia delle singolarità da approfondire in questo essere felice per lei, questo altruismo, perché allora uno, se volesse un diversivo di tipo fisico e sessuale, perché deve tenersi lo stesso per 5 anni? È una quasi moglie, è molto di più di una moglie, anzi, perché la moglie alla fine non deve starci per forza, perché è sposato, ha i figli e la famiglia, nessuno lo obbligherebbe. Quindi se lei ha desiderio e trasporto di avere questa sua amica, c'è qualcosa di più profondo che vi lega, di avere un rapporto fisico. Altra cosa, se lei ha un rapporto fisico perché non avrebbe come aver altrimenti altre occasioni, è riduttivo, una noia, è come dire mi passi l'aspirina che ho mal di testa. Max, come la pensa? Sì, Nico, Nicolette, buongiorno. Secondo ci vorrei una donna, perché parlo solo fra uomini, sembra che veramente sono il retrobottega di un barbiere. Comunque andiamo avanti. Io non parlo della tromba amica. Secondo me la tromba amica riempie un vuoto, cioè un vuoto periodico che una persona ha e gli dà una sicurezza anche se di tipo fisico. E a mio avviso la tromba amica e il tromba amico è l'unico modo per salvaguardare un'amicizia tra uomo e donna, che secondo me è impossibile, ma che viene scaricato dal punto di vista sessuale tramite un tacito accordo. Ci trombiamo una volta ogni tanto e così rimaniamo legati senza vincoli affettivi. Ma già fare un patto, facciamolo, lo trovo che sia riduttivo rispetto alla pura amicizia. Io trovo più comprensibile essere amici di una persona con cui si è avuto una storia nel passato e via dicendo, quindi sei depotenziato, scaricato a quel punto di vista, non vedi più l'aspetto sessuale di una persona, l'aspetto emotivo, passionale, via dicendo, ma ne apprezzi tutti i valori della personalità, dell'intelligenza, dell'affettuosità, di starti vicino, di esserti solidale. Se esiste tensione fisica e amorosa, significa che c'è una porta aperta verso qualcosa di molto più profondo. In quel caso perché chiamare amico? Sono un medico, lavoro 80 ore a settimana, ho solo bisogno di un uomo nel mio letto alle 2 del mattino con il quale non debba fare colazione. Odio la colazione. Bene. Un messaggio di Emma. Dove sei? Serve una risposta che la spiazzi. Dove sono? Controlla nelle tue mutande. Sì. Sì. Non scriverlo. Forse dovremmo stabilire delle regole di base. Niente bugia, niente gelosia. In caso di emergenza non farmi telefonare. Non risponderò. Non chiedermi che peso del tuo corpo. D'accordo. Non riesco a concentrarmi. Avrei preferito una più ampia disquisizione anche con le ascoltatrici su questo termine. Ho espresso la mia teoria, ho rischiato, dando un mio punto di vista per scontato, non ho avuto possibilità di confrontarmi con i punti di vista femminili, e una volta questo non accade lo considero un grande smacco. A lunedì. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.